Zolt. Zolt. Fulminati in azienda. Buongiorno a tutti, bentrovati, sono felice di vedervi dopo questi giorni, diciamo così, di lontananza. Allora, iniziamo la riunione, all'ordine del giorno, molto semplice, dobbiamo decidere il nome dell'evento e come raggiungere il resort. Ma come? Quale resort? Quale abbiamo deciso? Dove si va? Ma semplicemente ho deciso io, come sempre, andiamo al Merluzzo Felice. Ha reso felice me? Farà felici tutti. Nome dell'evento, voglio idee. Ecco, secondo me potremmo dividerci in gruppi, ogni gruppo un think tank. Sì, che schedula, mi hai quasi stancato, ma vai avanti. Ecco, dicevo che attraverso un brainstorming creativo ma strutturato ci permette di giungere a una preselection, ecco, di nomi. Ecco, come dicevo, mi hai stancato. Tac, tempo limite finito, arrivederci. Del brainstorming. Voglio nomi, proposte di nomi, font. Trova un nome colorato. Ma guarda, io pensavo a qualcosa che ricordasse la primavera, sì. Il rosa dei ciliegi in fiore, sì. Come metafora di rinascita, rebirthing. Sì. Che ne pensi? NCS, ma non ci siamo. Cosa avete mangiato? Un vocabolario sbagliato d'inglese. Adesso voglio guardare in faccia centrifuga, guardami negli occhi, non fare quella faccia che mi sembra il merluzzo infelice e tira fuori un'idea, almeno una. Come lo chiamiamo il sales meeting? Ah Marco, è un sales meeting, e chiamiamolo sales meeting. Ma pensa a te, che bella idea che mi hai proposto, bravo Centri, ti vedo sul pezzo. Certo, un filino in più di creatività non guasterebbe. Paragone, nostro super consulente, dimmi la tua. Io direi che queste proposte sono un po' insipide, ci vorrebbe un po' più di sapore, un po' di sale. Un po' di sale, bravo Paragone, mi piace questa idea, ma lo sai come lo chiamiamo l'evento? Sales meeting, sottotitolo, più sales nelle vendite. Sale, sales, so se avete capito e colto il sottile gioco di parole. Ragazze, lasciatevelo dire, siete uno splendore, uno schianto. Grazie. Bianca così elegante non ti ho mai vista. Grazie, tu, Marta, che sei un complimento. Impeccabile come sempre. A questo sales meeting veramente splenderete come diamanti. Centri, tu hai qualcosa da dire? Ammazza che gnocca, siete proprio ma buone. Ma che sagoma. La fonte, Shaina Goscia, che quando mi fa impazzire. Quando fingi di essere così grezzo, esatto, sei quasi credibile. Mi sembra proprio inappropriato questo tuo linguaggio, sai Centrifuga? Per nulla allineato al nostro codice per etico. Per piacere, che... basta, Bianca, lasciati andare un po' anche tu. Ma stai tranquillina, divertiti per una sera. A proposito, la limousine dove è finita? È Paco che sta sempre in ritardo. Prima stava qua, adesso è andato a prendere la macchina. Dovresti vederlo, Marco. Ah sì? Tutto vestito da autista. No, non ci posso C'ha credere. Pure il cappello, sembra uscito da un film. Eccolo qua, guarda. Siamo pronti a partire. Dai, andiamo. Gagliarda, stai della macchina di lusso, brava Fonte. Guarda, e tu Centrifuga, che ci volevi fare andare col bus insieme alla forza vendita. Ma ti immagini tutti quei venditori con quelle cravatte così demodè? Mamma mia, mi viene la pelle d'oca solo all'idea. Sì, però bisogna dire che andare tutti insieme su un unico autobus avrebbe certamente rappresentato una manifestazione di identity, di democracy. Oh, democracy, ascolta un attimo: il bus va bene per le maestranze e la limousine per il management. Come diceva il detto, ubi maior, ubi minor. Signore e signori, amici ed amiche, sono molto felice di essere qui con voi questa sera. Quest'anno in particolare ho sentito personalmente il dovere di impegnarmi in prima persona nell'organizzazione di questo pregnante evento. Lo so io dove ti sei impegnato, con Svetlana ti sei impegnato. Se l'ha fatto sicuramente per il bene dell'azienda. L'ha fatto. Tre sono le cose su cui voglio mettere l'accento e la vostra attenzione. La prima, le vendite dello scorso anno. Disastro! La seconda, quest'anno obiettivi raddoppiati. La terza, mi aspetto risultati quadruplicati. E che? La teoria della relatività? Ma che gli ha fatti i conti a sul pezzo? Ma è per motivarli, mica devi prenderlo alla lettera. No, infatti lo prendo bene i numeri. E per raggiungere obiettivi imponenti ci vogliono squadre vincenti. Per questo domani vi aspetta un team building competitivo. Io purtroppo, e me ne dispiaccio nel profondo, non potrò essere tra voi. Perché è chiamato ad altri importantissimi compiti. E te pareva, lo so io che deve fare, o meglio, chi se deve fare. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.